Radio Yes, la radio della città di Roma. No, vorrei interromperla un attimo. Senta, lei sa che cos'è l'equazione di Clausius-Clapeyron? No. Ecco, allora, punto. Però non c'è altro. Qualcuno di voi se non si conosce che cos'è l'equazione di Clausius-Clapeyron, non si può dire niente. Vuol dire che l'acqua evapora sempre e da qualche parte dovrà cadere. Punto. Non si può fare nulla per evitare che ci avvenga. Ma è il suo mestiere? No, questo è il mio mestiere. Certo che mi scaldo, perché quando sento dare le fantasie al posto della realtà, dico che l'acqua non si può impedire né che evapori né che precipiti. Oltre a questo file, ieri mi è arrivata una lettera, ovviamente per me sono anche è un motivo d'orgoglio personale avere rapporti così schietti con persone come Rosario Marciano, il quale ieri mi scriveva: vorrei far notare, ciao Davide, che è sufficiente conoscere il modus operandi delle attività di aerosol per prevedere quanto poi si verifica puntualmente. Infatti su Tanker Enemy Meteo scrivevamo: rischio di nubifragi e o grandinate da cloud seeding su Liguria di Levante e Toscana. Scommetto che se si analizzasse l'acqua piovana di questi giorni vi troveremo sicuramente lo pseudomonas. Il fatto che i meteorologi non abbiano avvertito del disastro imminente implica due ipotesi: prima, sono incompetenti; seconda, sono complici. Lui opta per la seconda. Noi ce l'abbiamo in diretta ed è davvero un piacere. Rosario Marciano, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie Davide per avermi chiamato. Rosario, quel file che abbiamo sentito, tra l'altro, in pratica fummo gli unici, io penso, ad avvertire che ci sarebbe probabilmente stato un rischio di nubifragi o nella Liguria di Levante o in Toscana, ma in entrambe le regioni, cosa che poi puntualmente si è verificata. Quel file audio che ti ho mandato si riferisce a delle affermazioni del meteorologo Luca Mercalli di qualche anno fa, e lui si riferisce ad una formula che è di un certo Clausius-Clapeyron, il quale affermava attraverso questa sua formula che se l'acqua piovana non va a precipitare in un luogo, chiaramente deve sfogarsi da un'altra parte. Questo detto così in parole semplici è una formula fisica che definisce quello che effettivamente accade, ovvero se in alcune aree le operazioni di aerosol implicano l'impedimento delle precipitazioni, quindi la distruzione di una determinata perturbazione in una definita area, questa perturbazione che andrà a spostarsi e a concentrarsi in un'altra sarà maggiormente violenta, proprio perché in base a questa regola che aveva citato Luca Mercalli e che ho voluto proprio far ascoltare per dare un'importanza a quanto viene adesso affermato, chiaramente le previsioni sono anche facili da fare. Nel contesto di quel giorno in cui poi è successo quello che è successo, ma sono fatti che si sono verificati anche nei mesi e negli anni passati, noi possiamo osservare che se è prevista una perturbazione, nel caso specifico in quei giorni era prevista una perturbazione molto corposa sulla Liguria di Ponente, siccome sappiamo che in questa zona, per motivi che non conosciamo, non è gradita una situazione di precipitazioni, abbiamo potuto ben immaginare che queste precipitazioni si sarebbero verificate nella zona laddove la perturbazione era spostata dalle correnti e in quel caso sarebbe stata maggiormente violenta. Questo è il sunto. Poi così si è verificato, qui infatti la perturbazione è stata completamente distrutta, come sta succedendo qui stamattina, e poi chiaramente le correnti hanno spostato il resto di quello che non era stato distrutto nella Liguria di Ponente ed è successo quello che è successo. Rosario, ovviamente la tua partecipazione già di per sé stesso è un evento che avrebbe attenzionato un po' tutti. Ovviamente già stanno arrivando tanti messaggi al 342-4151-406 e sulla nostra pagina Facebook, che è Overture Digi, la pagina redazionale nella messaggeria. Daniela ti chiede: buongiorno Davide, è sempre un piacere seguire Rosario Marciano, seguo i suoi studi e mi sembra una fonte autorevole ed attendibile. Questi nubifragi possono essere considerati davvero effetti artificiali, disastri causati dall'uomo? Lo sono sicuramente. Faccio notare che il primo fenomeno veramente violento che si è verificato in Italia lo abbiamo avuto nel Piemonte nel 94. E quella è l'epoca clou nella quale poi sono iniziate a livello sperimentale molto, molto incisivo le operazioni di aerosol e l'attività di ARP nel 94-95. Non è un caso. Poi comunque ripeto che la situazione, se si riferisce anche alla semplice formuletta citata da Luca Mercalli, è questa, cioè se in alcune aree, forse l'altra volta non l'avevo specificato, apro una parentesi, noi sappiamo anche da recenti acquisizioni che l'umidità atmosferica è un problema per le trasmissioni militari e per i segnali radar in banda KA e quindi con i radar militari e civili che lavorano sul range delle microonde di ultima generazione. Questi tipi di comunicazioni hanno dei problemi se vanno ad interrompersi i segnali attraverso un fronte nuvoloso. Quindi se, come dice un documento che abbiamo trovato, se un fronte nuvoloso è abbastanza corposo, le microonde non entrano, non passano fino al suolo e quindi il segnale dal radar al satellite e viceversa non può essere trasmesso correttamente, c'è una dispersione. Cinzia, Bruno, anche Claudio, Federico, cioè, Rosario il 18 è uno degli attaccanti, è forse il centrattacco della squadra in campo per difendere la letteratura scientifica, quindi autorevole e attendibile, delle scie chimiche contro, passatemi il termine, il versus Paolo Attivissimo Giuliacci, un rappresentante ENA. Quindi poi abbiamo anche due ore, un'intera mattinata dedicata, quindi con Rosario parleremo proprio il 18 di novembre di scie chimiche. Mentre ti chiedono, e questo lo fa Marina e Anselmo, te lo chiedo, Rosario, ti salutano, seguono gli studi, consideriamo l'opera di Rosario un'opera che va assolutamente pubblicata su tutti i siti, su tutti i blog, forza Rosario, non mollare mai, spieghi agli ascoltatori di Overture che cos'è il sistema aerosol. Sì, io definisco le scie chimiche operazioni di aerosol clandestine e anzi preciserei che la gran parte delle scie che vediamo noi per una questione ottica sono rilasciate a bassa quota, quindi tutte queste elucubrazioni sui parametri di umidità e temperatura che adesso ci possono essere perché siamo in stagione più fredda vanno a farsi benedire, vanno a perdersi, perché si tratta di aerosol rilasciati a quote non superiori ai 3000 metri, quindi in condizioni di umidità, temperatura e pressione non idonee alla formazione di alcun tipo di scia di condensa che sia evanescente o persistente, tant'è che ripeto gli aerei di linea non si vedono, quelli che vediamo noi sono aerei militari in gran parte che volano a bassa quota. E perché volano a bassa quota? C'è un motivo, perché le perturbazioni non sono certo a 9000 metri o a 13000, si tratta logicamente di interrompere quel flusso dinamico di correnti umide che stanziano a quote non superiori ai 3000 metri, a meno che non si tratta di cumulonimbi, in quel caso la parte superiore arriva fino a 6-7000 e quindi queste operazioni si concentrano a quote medio-basse. Rosario, ti chiedo la cortesia di pazientare, ti fermo soltanto un istante per la pausa pubblicitaria, poi Rosario Marcianò torna per il saluto finale e con Rosario ovviamente lanciamo, so che Paolo Attivissimo in ascolto, lo salutiamo, e con Rosario poi lanciamo la puntata speciale di Scie Chimiche, il focus di Overture, il 18, venerdì 18 di novembre. Rosario, ci risentiamo tra due minuti. Ok, grazie. Grazie di cuore. Allora, rimanete con noi e poi la domanda delle domande. Lo so, è questa che farò a Rosario, poi presentiamo la giornata del 18, la mattina del 18 e ci congediamo. A chi serve questo? Com'è possibile che delle persone creino questi disastri naturali essendone consapevoli? Giulietto Chiesa una volta disse molto probabilmente chi guidava l'Enola Gay che sganciò la bomba su Hiroshima o Nagasaki, non ricordo, non sapeva quello che stava facendo, ma chi l'aveva mandato sì. Però ce ne parla Rosario Marcianò, che credo possa considerarsi a ragione uno dei il più grande forse ricercatore a livello mondiale per quello che è lo studio, la divulgazione e il dibattito sulle scie chimiche. A dopo. Rosario Marciano sostiene, ma lo fa responsabilmente, seguite il suo blog, sostiene che i nubifragi che hanno colpito Liguria e Toscana sarebbero stati causati proprio da imperizia umana. Seguite però il suo blog e tutto quanto. Mentre i complimenti che leggo non dovete farli a noi, ma li dovete fare ai nostri sponsor, quegli sponsor che hanno fatto una scelta di coraggio, credono nel progetto di Radio Yes e questo coraggio va assolutamente premiato. Yes Music, canale 617, digitale terrestre. Eccoci qui ancora con Rosario Marciano, lo teniamo proprio 3 minuti. Rosario, di nuovo buongiorno. Buongiorno. Volevo concludere, devi, prego, questa Rosario. Domanda, sì. Se sono stato in grado io di prevedere, le prove ci sono perché è stato scritto sul nostro sito il giorno 24, anche nel Meteo, se sono stato in grado di prevedere quanto poi si è verificato, per quale motivo i media ufficiali, i meteorologi ufficiali e la protezione civile non hanno fatto niente? Rosario, attenti, non lo so, certo, vogliono coprire le operazioni di aerosol clandestine? Ecco, la madre di tutte le domande che poi riprenderemo il 18, venerdì 18 novembre, Focus, dalle 8 alle 10, puntata dopo il commento alla rassegna stampa, interamente dedicata alle scie chimiche, un parterre de roi, il nostro centrattacco è sicuramente Rosario Marciano, Paolo Attivissimo, Giuliacci, responsabili ENAV dall'altra parte. È un momento che si annuncia di grande radio, di grande informazione, non per merito nostro ma per merito dei nostri relatori, dei relatori sia da parte di chi sostiene la nocività delle scie e di chi da parte di chi non lo fa, e ognuno poi assumendosi le proprie responsabilità rispetto a questo. La madre di tutte le domande, Rosario, è proprio questa. Sì. Io credo, scrive testualmente Enrico De Lucia, io credo a Rosario Marciano, seguo gli studi di Rosario Marciano. Le parole di Mazzucco su Rosario Marciano mi hanno confermato che è sicuramente Rosario Marciano il migliore studioso di questo fenomeno. Ma perché le autorità cosiddette ufficiali non prendono in considerazione questo studio? È come chiedere al macellaio. Ti chiedo scusa, Rosario, per Mazzucco disse, quando si parlò di te, disse ottimo, ti riconobbe la grandezza assoluta dello studioso, disse, se l'ha detto Rosario, dice è uno che ha studi incontrovertibili, solo per questo si citava il tuo nome in riferimento a Massimo. Io ringrazio Mazzucco, e d'altronde se fossero solo scie di condensazione, come affermano altri, io non avrei neanche potuto prevedere fenomeni del genere. D'altronde su Tanker Enemy Meteo noi siamo in grado di prevedere le operazioni di aerosol semplicemente perché conosciamo le metodologie e le necessità tecnologiche che implicano la modificazione climatica per scopi militari, e qui rispondo alla domanda che è stata posta dal lettore. Grazie a Marciano per la sua onestà e il suo coraggio, Raffaella. Grazie Rosario, non mollare mai, lo dice Giancarlo, ma Rosario non ha mai manifestato, credo, la volontà di mollare, state tranquilli, giusto Rosario? Ah sì, assolutamente. Appunto, Li devono solo eliminare fisicamente. Speriamo di no. Allora, qui rispondo ad Herbert che ci segue da Lugano, il 18 di novembre, dalle 8 alle 10, conferenza interverranno da ogni parte del mondo. Ovviamente abbiamo scelto i migliori da una parte, in questo versus, i migliori dall'altra. Qui si leggono di tutto. Dateci una mano a capire meglio, a divulgare questa cosa, seguite Rosario Marciano. Rosario, possiamo dare dei tuoi riferimenti tipo blog o altro? Sì, allora il blog è su www.tankerenemy.com e il canale video è www.tanker-enemy.tv. Tra l'altro faccio notare che ho pubblicato recentemente le immagini in uno spot che anticiperà un nostro articolo su le analisi fatte al microscopio della polvere che normalmente si trova sui mobili o comunque all'interno delle abitazioni e che evidenzia la presenza di filamenti di polimeri. Un abbraccio Rosario, ci sentiamo in diretta venerdì 18 di novembre. Grazie, grazie a te e a tutto lo staff della radio. Grazie. Grazie, grazie a Rosario Marcianò, grazie alla splendida Ivana Mannino, grazie di cuore, compagna e amica straordinaria in questa meravigliosa avventura. Il 18 di novembre, un evento straordinario, un'altra esclusiva di Overture, soprattutto di Radio Yes. Yes Music, canale 617, digitale terrestre.